assenza dal progetto un ingegnere, l'ingegnere è pagato per progettare, l'ingegnere progetta a casa che venne un terremoto nella lampa in terra, l'ingegnere progetta solai che crollano, non c'entra niente Gianni, io con tutto rispetto, il giorno che ho montato quell'antenna, perché te l'ho montata io, c'ero io, ti ho detto anche, cazzo ma questa antenna non costa troppo per il materiale che ha fatto, sono tre tubi di ghisci, di canala, di come si dice, quei tubi sembrano quei tubi elettrici dove metti esternamente i cavi innestati con delle fascette e un filo dentro, che tra l'altro è talmente facile farla che ce la stanno costruendo tutti. Cosa mette l'ingegnere? L'ingegnere è nato per progettare, come il geometra è nato per disegnare, per dirigere i cantieri, e l'architetto è nato per arredare, ma anche loro fanno un sacco di cagate, non è detto perché è stata progettata un ingegnere sia l'antenna numero uno. Anche la mantova è stata progettata sicuramente da un ingegnere, non è stata progettata da Claudio, da Giulio e da Gianni, no? E cosa c'entra? Ognuno c'ha il suo lavoro, no? Secondo me, poi correggetemi se sbaglio, però per il costo che ha quell'antenna, il materiale e per come è fatta, la fanno anche i bambini. E infatti è la progettazione che ti fanno pagare, non l'antenna. Bravo, vedi che ci sei arrivato, perché magari il nome stesso, io non lo so, ti ripeto, posso dire stronzate perché non me ne intendo, però dico, magari si chiama Game Master, lui, o cosa ne gioco, l'antenna deriva dal nome dell'ingegnere che l'ha costruita, come, non so se conoscete, la G5RV, che è un dipolo favoloso a 5 bande, che ha progettato un radioamatore e ha messo il nome l'antenna si chiama praticamente come il suo nominativo, cioè tante cose ci sono da vedere, però ripeto, secondo me, secondo il mio punto di vista, per come ho visto quell'antenna, è un progetto che sa fare Giulio, che è falegname con tutto rispetto, Giovanni che è muratore, Peppino che è in bianchino, la sanno fare tutti quell'antenna perché è talmente facile da fare che non lo so, poi posso anche sbagliare, vai Giulio. Sì, ma io l'ho sempre detto quello, che considerando come è stata costruita questa antenna, considerando il prezzo e qualità, è un furto nel vero senso della parola, perché lì ci saranno se no 30 euro di spesa, non di più, all'incirca così, e te la fanno pagare 160 euro, anzi io addirittura avevo visto una ditta in Gran Bretagna, 220 euro, addirittura, cose assurde, che una canna a pesca così possa costare così tanto, non è possibile, perché di materiale ci sono, se no esagerando, 30 euro, ma 30 euro comprando a noi però il materiale, comprando a noi il materiale per costruirla noi con le nostre mani, una ditta che la costruisce, quando ha speso molto il materiale, lei ha speso se no 15 euro, perché loro ne prendono a un numero grossissimo di antenne, di canne e di cavi, e dunque hanno lo sconto madornale, e il discorso è sempre quello. Poi quello che sta dicendo Luca ha ragione, in un certo senso ha ragione, perché il tempo ha dimostrato che si è stretta, certo. Sì, è vero, loro dicono che con l'onda per 160 km all'ora il vento. Io però dico questo, tant'è vero non mi sono fidato, e l'ho rinforzata proprio con questo pezzo di tubo che ci ho messo, e ho visto che questo pezzo di tubo ha una sua funzione, evidentemente se non mi si è mai spezzata è perché probabilmente ci ho messo questo tubo di rinforzo, tutto lì. Ok, avanti Tino. Scusate che non abbassa. E là, se che dura, poi la mettiamo nuova, problemi non ce ne sono. Se decido di rimanere in frequenza ne metto un'altra e basta. Ah beh certo, quello sì, no, non ci sono dubbi, ma come stavo dicendo Tino, poc'anzi anche la mantova si è spezzata, io non so se voi avete idea di come proprio il vetturismo della mantova, che è abbastanza grosso perché è un tubo all'incirca di 4 cm e mezzo di diametro, e dopo il punto c'è infilato tutto lo stilo centrale della mantova. Anche lì sarebbe bene rinforzarla magari con un bastone anche di legno, perché quella vetroresina prima o poi si spezza a forza di oscillare, nonostante che a 4 cm e mezzo di diametro quel tubo lì, dove è infilato proprio lo stilo centrale, anche quello si può rompere, l'ha detto poco a Tittino, evidentemente gli è successo. Vai Luca. Beh sì, perché sfibra, è normale. Oh Giulio, la resina può essere grossa quanto vuoi, sfibra, una volta inizia a sfibrare, inizia a assorbire, perché finché è nuova, c'ha la, oltre che la fibra, ok, c'ha anche la fibra di vetro liquida attorno, e fin lì tutto bene, come le marche, ok? Se tu la marca, le togli la vernice e inizi a levigarla poco a poco, praticamente stai togliendo la patina della resina liquida, boh, lì la struttura inizia a indebolirsi, no? È normale. Io perché nelle mie ho messo nastro isolante e nastro vulcanizzante? Perché è normale che sfibra con gli sbalzi di temperatura, caldo, freddo, è normale. Una canna da pesca è un millimetro, non stiamo parlando della Game Master che ha i suoi millimetri, ma stiamo parlando di una canna da pesca che grazie a Dio è ancora sul tetto, no? Però se tu non li fai questi lavori qua, dura poco, perché la sfibra il tempo. Sì, ma certo, appunto proprio per quello che ho dei rinforzi di contenimento, proprio per evitare che un domani mi si potesse spezzare. E sul lavoro che ho fatto è il risultato buono, perché non mi è successo che mi si sia rotta tutto lì. Per cui è bene, poi come l'hai fatta tu, tanto meglio ancora, perché anche nella peggiore delle ipotesi che si dovesse rompere, spezzare, quella rimarrebbe sempre appesa, a differenza invece di questa che potrebbe anche cadere, nel senso che perché su, in punta, è fissata da una brugola praticamente, cioè la parte finale del filo elettrico è fissata per essere sempre in tira, fissata da una brugola, sicché il vento potrebbe anche strapparla lì, dunque mentre invece come stai facendo tu, vulcanizzandola tutta quanta per tutta la sua totale lunghezza, nastro isolante eccetera eccetera, anche se si dovesse spezzare rimane sempre impigliato con nastro isolante e con nastro vulcanizzante, dunque non potrà mai cadere per strada, ecco quello sicuramente, riconosco che il lavoro così è fatto proprio per bene, veramente. Ok, avanti Gianni. Ehi, ma poi dipende anche come si piazza l'antenna, perché tra un elemento e l'altro ci sono le misure giuste, se uno non le rispetta mette un elemento più dentro, l'altro più fuori, e quindi quello che è più fuori è più debole, quindi bisogna rispettare anche le misure che ci sono scritte nella carta dove ti spiega come piazzarla. Ci sono le misure tra un elemento e l'altro che bisogna rispettare. Infatti nelle caratteristiche e nel manuale o comunque nei siti di chi la vende consigliano sempre di piantare anche l'antenna dopo il primo elemento, leggetevi bene, chissà come mai consigliano sempre questo. E infatti chi ce l'aveva tirantata li si è spezzata. Vabbè, ma dove ce la fai fa però? Dove ce la fai fa Sandro? È come che la metta io qua a 50 metri di altezza con 8 metri di palo, ma stai scherzando, lì no. Penso anche la mantova va tolto, alla fine doveva mettere una mini Grand Prix per poter, perché anche la mantova lì ti spezza, sono sicuro al 100%. Stai parlando, già lo sai di dove. Quindi, comunque, le misure lì, le rispetti o non le rispetti Gianni, devi per forza fare quel tanto lì, perché altrimenti se ti ricordi non arrivava al capo, oppure il capo era troppo lungo, il capo deve chiudere in testata proprio alla fine, perché vai a rispettare le misure di innesto, non c'è da sbagliare, dai, comunque, non lo so, Luca ha molta più esperienza sicuramente di me e di voi, perché le costruisce... sono solidale con chi ce l'ha questa antenna, spero che rimanga in piedi vita naturale durante, non auguro niente a nessuno per carità, però è un'antenna che, come dice Giulio, e questo io l'ho detto da quando l'ho vista, qualità-prezzo è molto ma molto cara, perché non c'ha niente proprio di nulla, assolutamente. Ok, io vi saluto, vado a portare il cane che non sta piovendo, se ci siete a dopo, altrimenti ritenetevi tutti salutati. Ciao. Ciao Cla. Va bene, dai, riprendi giù. Ok, ciao Cla. Sì, ebbene, in effetti è così, è troppo costosa per il materiale che utilizzano. Vai Luca. Giulio, allora, quell'antenna lì è una fabbrica non che è costruita apposta per fare quelle strutture lì, è una fabbrica che fa anche quelle strutture lì, capito? Di quell'antenna lì, quello che costa è la struttura, non la parte elettrica, ricordiamoci, forse qualcuno non lo sa, pensa che la parte elettrica sia un miracolo, ma io come ho detto a tutti sempre, mettiamo sotto analizzatore, la mia è sotto analizzatore la propria Game Master, ok? In base a cosa ognuno poi giudica, ok? In tutto e per tutto, con l'analizzatore. È la struttura che si fanno pagare, è la struttura perché è una fabbrica che costruisce strutture per l'assirio, ma non solo strutture per l'assirio, fa serbatoi, fa tante altre cose in vetroresina. Hai capito cos'è che costa della Game Master, ok? Sì, beh certo, ma lo so che è così. Ma tu pensa che quella che avevo fatto io, tu la guardavi da lontano, e non ti rendevi conto se era originale o se era autocostruita, perché l'avevo fatta talmente precisa con l'H155, anche la bobina l'avevo rivestita di nastro isolante rosso, dunque guardandolo a distanza sembrava la Game Master originale. Poi abbiamo fatto i coperti che ti fanno vedere, le rifaccio, ti fanno vedere come li ho fatti, se c'è differenza da quella originale a quella che posso fare io, parlo della bobina. Identica, sai cosa vuol dire? Identica nel vero senso della parola, perché mi ero veramente divertito, ci avevo messo tutto l'impegno per farlo. E poi avevo camuffato il cavo, perché è nero, con medio grigio, l'H155, e l'avevo rivestita con l'isolante rosso. Tu la guardavi da fuori, dalla strada, vedevi benissimo la bobina e sembrava la Game Master originale. Perché? Perché l'avevo camuffata in quel modo. Il modello è identico, stesse misure, tutto quanto, precisa e identica. Perché mi ero veramente divertito con il legno, avevo fatto due tappi, uno sotto e uno sopra, con due incassi, uno per il cavo da 63 mm e poi l'ho portato a 66 col nastro adesivo, nastro cartagommata, no? L'ho portato a 66 mm. E quei due tappi allo stesso tempo avevano un foro, sia quello di sotto che quello di sopra, da 40 mm, dove ci passava il tubo grigio, quello da scarico di lavandino, eccetera. Ripeto, era perfetta, come modello perfetta, un prototipo perfetto. E allora avevo quella funzione, è andata. Adesso c'è la mia nipote, parlerci. Non so se ce l'ha piazzata nemmeno, figurate un po'. Avanti Gianni. E andava anche bene, come antenna, non solo prototipo, ma funzionava anche bene, dai. E il materiale, Luca, è una di quelle cose che interessa, se te lo fanno pagare perché mettono materiale più buono di quello che si mette quando si fa artigianalmente, normale. E che le cose buone te le fanno pagare, tu lo sai benissimo che se utilizzano materiale superiore te lo fanno pagare di più, è normale. Poi noi ci accontentiamo anche della canna da pesca perché in effetti ciò che lavora è la parte interna, non quella esterna, però quella esterna serve per tenere il cavo che c'è internamente, logicamente. Se poi si trova un modo di farla con tubi particolari, allora lega, la studia. Cioè, si trova il modo di farla bene con dei tubi resistenti, invece che la cala da pesca, meglio così. Certo, certo, ma qua non ne trovi, non ne trovi di quella roba lì, oh. Oh già, no, non ne trovi. Purtroppo, come avrai visto nei video, quell'antenna lì spezzarsi, ma purtroppo è così, che cosa ci vuoi fare? Capito? A parte quello, poi i problemi che dà la parte elettrica, capito? Così che, poi, tornando a Giulio, Giulio, se tu l'antenna la fai, come hai detto tu, ti è durata 2 anni e mezzo, poi l'hai tolta, ok, piazzala su 6 metri di palo, 5 metri di palo, ok, e la lasci stare lì, e poi vediamo, non parliamo di antenne, voi mi dite, ma io l'ho fatta, l'ho messa, sì, era bassa, ok, era bassa, anch'io se la metto in terrazzo, la metto in terrazzo mi dura 50 anni, no? Mettiamola sopra al tetto e con 5-6 metri di palo, e vediamo un po' se prende lo stesso vento di quando è per terra, come ce l'avete voi, attenzione. Dubbiamente mettendola qui in alto c'è la possibilità che prenda più vento, questo no, non c'è dubbio, ci mancherebbe, io lo credo, perché più in alto si sale, l'antenna stessa te lo dice, più in alto la metti e più diventa rumorosa, tutte le antenne sono così, questa è la riprova che quando la metti più in alto, chiaramente c'è sempre più aria, più corrente, eccetera, corrente inteso come vento, eccetera. E questo sì, è normale, certo, ripeto, poi tutto il resto, lo so, io ho tenuto 2 anni e mezzo, magari non era abbastanza tempo per potersi rovinare, non lo so questo, so solo che io l'ho fatta a primo colpo, avevo copiato le misure da quella originale, stesso quando, prima che io la dissi a mio nipote, avevo preso le misure, avevo preso e ce le avevo conservate, e le ho fatte così, uguali, identiche, è andata bene, a primo colpo per quanto riguarda le stazionarie, poi tutto il resto di tutti i parametri è un altro discorso, quelli non ti posso dire niente perché io analizzatore antenna non ne ho, però a livello di stazionarie su tutta la banda della 27 era sempre 1-1 con 5 watt di potenza, se poi la mettevo più forte la potenza poteva salire anche 1-3, però sono così, la mia è stata con l'ormetro. Ecco, intanto nel frattempo mi stanno chiamando per scendere a cenare, capito Luca? È tutto lì, poi tutto il resto, tutti i parametri, l'impedenza, la resistenza, la capacità di emissione, tutto indistintamente con Luca, è chiaro che quello non lo potevo sapere, scusate che prendo il telefono, dai. Eia. Va là, io vi saluto tutti cordialmente, me ne saranno anche io che devo portare giù il cane, Luca, dai. Vabbè, adesso vediamo, vabbè, io l'ho piazzata così proprio per non farli prendere molto vento, dico la verità. L'abbiamo piazzata più bassa, se no io il tubo ne avevo dentro, era da 8 metri il tubo, ne ho messo 5, sì, massimo. Però vabbè, devi contare che tutta quanta la... dovuto passare tutta la gabbina prima, quindi il tubo ne sbucca poco, là. Scusate, dai, io vi devo lasciare, mi hanno telefonato per scendere giù a mangiare, ci sentiamo, ciao Luca, grazie della chiacchierata, ciao Gianni, saluto già tutti quelli, se c'è qualcuno in ascolto, se ritenga salutato, io chiudo, ascolto fino a lì, poi chiudo, vai Luca. Ciao Giulio, buona cena, e a domani, dai. Vediamo un po', avanti Ottino. Sì, io mi stavo entrando per dirvi che ero qua. Ciao Giulio, ciao, ci sentiamo. Vai Gianni. Scusa, ciao Gianni, che sono Ottino. Pensavo che ti era lontano, Ottino. Ciao Ottino, alle prossime, dai. Grazie anche a te per la chiacchierata, anche a Gianni. Ciao. Andiamo, buona serata, buon continuo PSO e alle prossime. Vabbè, abbiamo fatto un po' di casotto, ci siamo sovrammurati in tre. Ciao Giulio, ciao Gianni, ho capito che anche tu stai andando via. Niente, riprendi Gianni perché c'è stata una sovrammodulazione in tre. Vabbè, non fa niente, dai, vi stiamo salutando, vi auguro un continuo PSO, grazie per la serata, dai, ci sentiamo. E vado a portare il cane, se no se piove poi non ce la faccio più. Va bene, va bene. Ciao Giulio, ti ho sentito, ciao ciao. Ciao Gianni, alle prossime. Claudio c'è? No, anche Claudio mi sa che sei andato. Oh, sto guardando questo fuoco, allucinante, sta cucinando i polpi, nell'anguria, nella zucca, ne prendiamo quelle cose. Pocaccioni. Non hai detto la signori, ma la zucca non mi ispira così tanto. Non sai cosa che ha fatto, ha svuotato un'anguria, ha messo il polpo cotto però con una sorta di liquido che poi è diventato gelatinoso. Poi ha tagliato l'anguria come la classica anguria per poterla mangiare, me l'ha fatta a forma di. Cioè, forma di anguria con il polpo. Angu polpo, e vabbè tu non la sai fare, cosa ne sai di queste cose? Fucchie! Come gli chef strani si pongono il cioccolato sopra la carri, babbari, non sanno più cosa inventarsi, ma tieni le tradizioni, devi tenere le tradizioni. Sai che tu non hai studiato, quindi non sai che il dolce si può associare anche con l'amaro. E quello sì, come vedi per esempio il prosciutto al melone, per carità, io quando vedo qualcuno, non è che quando vedo qualcuno mangiare il prosciutto col melone, ma per carità, io per me, poi i gusti sono gusti, uno può mangiare la gorgonzola con il cioccolato, ma stiamo andando a finire proprio. Allora io parlo da ragazzino, ma proprio da ragazzino, quando allora mio padre faceva la salsiccia ai suoi tempi, quando era giovane anche lui, io mangiavo il panino con la salsiccia e lo zucchero, perché la carne dolce mi piaceva di più. Infatti io non sto dicendo che è sbagliato, ognuno ha i suoi gusti, tu puoi mangiare anche la gorgonzola con la Nutella spalmata sopra la fetta della gorgonzola, ognuno ha i suoi gusti, a me così non mi piace, allora sento il gusto di uno, sento il gusto dell'altro, va bene, ok, aglio, olio, peperoncino come condimento sulla carne, ok, e lì ci sta, ma che tu mi poni la Nutella sopra la gorgonzola o prosciutto sul melone, sinceramente se è un prosciutto buono, ottimo, dolce, tutto quanto, secondo me è un errore madornale. Poi va bello, andiamo corto perché gusti e colori non si discutono, quindi perché tu ti mangeresti la gorgonzola con la Nutella? Andiamo. No, però non assaggerei, non posso dire che non mi piace, io sono la classica persona che assaggia quasi tutto, no? Che vedo cose come la mi garba, la parola, la maggioranza delle cose io l'assaggio, anche strane. Allora facciamo così, domani vieni qua, vi spargo la gorgonzola e la Nutella sulla pancia e tu vieni e la mangi. Me la lecco. Peli compresi, e così vediamo. Vedi, magari quelli danno fastidio, rasati prima. Oh, ma quella che hai tu è proprio quella originale? Sì, cla. Ok, ti faccio sapere. Eia, già è. Prima la tira poco è meglio, per carità. Oh, sì, originale, mai montata, mai usata, così che. Capito, Otti. Domani, se piove, intanto piove domani, non lavori, vieni che facciamo gli esperimenti. Un po' di gorgonzola ce l'ho. Fai così. Vediamo. Vito, aspetta, sta chiamando mamma, la poco fame. Ai, qua. A me mi sta chiamando mamma. Nicolas. Ah, gli devo chiamare il dottore, se. Non pesce, va arrivi alla volta, no? Cosa vi fare? Brevi con la gorgonzola? Sì, stiamo parlando di questi gusti, che poi ognuno appunto, come dice Tino, non si discutono. A me il prosciutto al melone non mi piace, mangiare la fragola con la Nutella non mi piace, e poi c'è quello che gli piace, giustamente. Vabbè, però tu fai gusti un po' troppo strani, però, perché se tu gusti la fragola con la Nutella è una cosa pazzesca, il prosciutto col melone è da una vita che si usa. Io ho mangiato la fragola con la Nutella come gelato, ma è una cosa spettacolare. No, scusi, non la fragola con la Nutella, che stiamo parlando di robe dolci comunque. La gorgonzola con la fragola, questi paragoni qua sto parlando, capito? Ocla. No, a me non mi piace il prosciutto al melone, no, l'ho assaggiato, non mi piace, io a me il prosciutto mi piace sentire il suo gusto, la sua dolcezza, se di Parma, San Daniele e quelle robe lì, ma messo in mezzo così, sinceramente non mi piace. Boh. E Tino te l'ha detto, vuol dire che le piace? Sì, io non l'ho assaggiato, però sono la classica persona, ripeto, che assaggia un po' di tutto, quindi non mi farebbe schifo assaggiarla. Poi darò il mio parere, no, giustamente. Ripeto, ribadisco che gusti e colori non si discutono. Lo so, i gusti sono gusti. Anch'io sono abituato a mangiare un po' di tutto e ti dico che sono gusti piacevoli, piacevoli. Che la fragola la accompagni con tutto. La gorgonzola lo sappiamo, è una cosa che va bene la pasta, va bene dappertutto, perciò poi vabbè. Ognuno giustamente ha i suoi gusti. Va bene, va bene. Tutti andati via, sono? Sì. Chi è a portare il cane, chi a cenare? No, io il cane gli ho dato il guinzaglio, il coso, è sceso, ho aspettato nel portone, è andato, ha fatto ed è tornato da solo, domani. No, vabbè, già ne doveva portare il cane. E Giulio va a cenare. No, io l'ho portato qua nel giardino, ha fatto i bisogni, ne ha gettato subito perché comunque non piove. Secondo me domani non piove, c'è un venticello leggero e il cielo si è fatto tutto celeste, perlomeno qua nelle alture, poi non lo so lì da voi. No, vabbè, io mi sto organizzando ad andare a lavorare, poi domani mattina tra la faccenda vediamo come è il tempo, se no. Va bene, dai, che ho gente a casa, un attimino, devo rimanere un attimino in verticale a parlare di due cose, poi magari se c'è qualcuno, riprendo, sono ciccia, praticamente vi salutate. Ciao a te, sì, anche qua ci sono le stelle, sì che, riesci a vedere chi è, vediamo un po'. Favore! Che merri! Sta di nuovo spegnendo lui, ma sta la poggia appena si spegne si riaccende. Fa se c'è quel contatto lì, ma se ne ha quattro un motivo ci sarà. E lui che mi sta accompagnando, dai ci passo, ma lasci. Eia! Dai così faccio le 5 ore e te li metto nell'ascensore. Ehi, adesso te lo stacco di nuovo, guarda che l'avevo rimesso nella radio prima di piccino. Eia, se poi c'ha i tastini, quello della lampadina, c'è del letto che c'è sopra lo schiacci, molte volte me lo devo riaprire e mettere un pezzo di nastro gommato. Ma stai parlando? C'è Claudio, Tino ha chiuso. Vabbè, chiudo anch'io, dai. Ci sentiamo magari, lascia acceso se c'è qualcuno. No. Avanti, Claudio. Ehi, dai, ne approfitto anch'io allora, ragazzi. Buona cena a tutti, se coincide a dopo, ma sarà molto difficile. Altrimenti a domani. KK e Roger, ciao Lucari e basso ti sento. Ehi, dai, va bene, dai, non torno già.